Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Riascoltiamo la puntata di Melog, andata in onda il 30 marzo. Non ho una grandissima esperienza in raccolta punti. Lo so, la mia è una visione arcaica, antica, ormai fuori del tempo. Figurine affogate nei fustini detersivo, bollini strappati dai formaggini per prendere la maglietta della mucca Carolina. Mamma mia, sono ricordi decennali. Però non è da trascurare che il fenomeno della possibilità di avere fantastiche offerte o fare straordinari affari giocando sulle raccolte dei punti, sui coupon, sulle offerte che vengono fatte da vari esercizi commerciali è uno sport modernissimo, tanto che in questi giorni è possibile vedere un nuovo programma su Real Time, un canale Sky, Extreme Couponing, pazzi per la spesa, dove racconta la storia di alcune massaie americane folli per la raccolta di punti. Voi direte cosa ci fanno? Ci fanno affari fantastici. Oggi compriamo 70 barattoli di senape, 15 kg di macinato, 52 litri di latte e 100 pacchi di carta igienica per un totale di $5.15. Wow! Benvenuti nel regno delle spese extra large a prezzi extra small, dove le professioniste dello sconto vi mostreranno che c'è una sola... Non so esattamente come funzioni alle nostre latitudini. Io vedo quando vado a fare la spesa nei supermercati che esiste un'infinità di fogli, foglietti, fogliettini. Mi chiedono sempre, c'è la tessera? Io non so nemmeno cosa sia, pago e basta. Ma evidentemente ci sono delle persone che compulsivamente, ma anche con grande risultato, dato anche il momento di congiuntura economica, dedicano parte importante del proprio tempo alla raccolta dei punti, alla ricerca dei coupon, alla maniera di fare il grande affare. E poi naturalmente l'alfabetizzazione digitale, l'entrata nel fantastico mondo dell'online anche da parte delle massaie o delle persone preposte all'acquisto quotidiano di vettovaglie ha favorito la cosa. 800 24 00 24, quanta fiducia avete nei coupon, nelle raccolte punti, nelle offerte dei supermercati? Quando vi dedicate con passione, attenzione, perché guardate che è quasi un gioco, è un divertimento, è una sorta di azzardo, non è più un qualcosa che si fa soltanto per il puro e semplice risparmio. Si fa per l'indicibile frenesia di ottenere qualcosa gratuitamente. Carrelli strapieni. Svuotiamo lo scaffale. Scorte domestiche da non credere. Ecco che cosa vedo prima di addormentarmi. Tutto ottenuto a prezzi incredibili. Anche questi li ho presi tutti gratis. Benvenuti a Pazzi per la Spesa. $530 di sconto, è il 98% della spesa. Nella prossima mezz'ora conoscerete due pesi massimi dei buoni sconto. L'undicesimo comandamento è non pagare il prezzo pieno. Ho i buoni per queste. Dici che ci bastano le 40 scatole che abbiamo a casa? Sono pronte a tutto pur di risparmiare. Ho chiesto al direttore una lista in ordine alfabetico di tutti gli articoli venduti nel supermercato con il rispettivo scaffale. Scoprirete le loro strategie segrete per ridurre a zero uno scontrino da $1000. Controllo ogni volta le regole sui buoni, perché potrebbero aver cambiato qualcosa. Vivrete attimi di terrore alla cassa. Partiamo subito dalla rappresentazione del fenomeno attraverso un programma, anche se è un programma real time, cioè un programma che racconta una realtà, non è una fiction, però è specchio di una realtà che ci sta soltanto lambendo, probabilmente non è emersa in maniera così precisa nelle nostre città. Laura Carafoli, buongiorno. Buongiorno. Direttore dei programmi dei canali Discovery in Italia. Dimmi qualcosa in più su questa serie. Queste massaie pazze della spesa a prezzi stracciati, poche ne fanno di 80 scatole di senape in casa? Esatto, la cosa divertente e anche un po' inquietante è che effettivamente vivono sommersi da prodotti dei quali praticamente non se ne faranno mai niente. O quindi se li scambiano magari fra loro? Non proprio, certo, magari danno da mangiare anche, la cosa molto interessante è che molto spesso danno in beneficenza poi alcune cose oppure condividono con le famiglie allargate appunto le 100 scatole di senape che hanno nella loro dispensa, perché la cosa un po' anche, come dire, comune di queste persone non è soltanto la loro ossessione, il loro divertimento estremo per fare questo sport che loro considerano molto più di un hobby, ma in realtà loro devono avere sicuramente in comune tantissimo tempo, perché come avrei visto stanno anche 5-6 ore in un supermercato, e poi devono avere in comune anche un grande spazio dove accumulare poi queste quantità incredibili. Però, di oggetti. Diciamo che è qualcosa a metà fra gli acquisti compulsivi e la cleptomania o il gioco d'azzardo, perché esatto, leggo nella scheda che portano a casa con $80 $1,600 in prodotti, quindi sì, c'è una straordinaria possibilità di fare dei margini interessanti rispetto alla spesa. Assolutamente sì, tra l'altro queste persone, alcune di queste, poi tra l'altro il fenomeno in America è talmente grosso e questo programma in America ha avuto un successo incredibile, tanto che sono arrivate alla terza stagione, noi siamo solo alla prima e abbiamo visto solo veramente una piccolissima parte di quello che riescono a fare. Ma sei convinta che sta anticipando una tendenza che prima o poi registreremo anche noi? Sicuramente sì, perché ancora diciamo la parte marketing delle nostre grandi aziende in Italia non consentono di fare accumulo di buoni sconto o piuttosto che queste grosse discount, però è una cosa a cui secondo me arriveremo, probabilmente non in queste dimensioni, cioè non con un dollaro comprarti $1,500 di spesa, però qualcosa di simile secondo me si può vedere, ma è una risposta un po' anche a una crisi che là hanno avuto prima di noi in maniera molto più drammatica, quindi in qualche modo qualcosa di simile probabilmente lo potremmo vedere anche noi. Allora fermiamoci solo un secondo, resta in ascolto Laura, abbiamo una nostra, chiamiamola questa mattina, corrispondente, perlomeno testimone del fenomeno, dagli Stati Uniti, cioè dalla California, da Pasadena, Simona Cianciulli, buongiorno. Buongiorno Gianluca, salve a tutti. È responsabile del sito soldissimi.it, un sito che tu gestisci però dalla California. Sì, gestisco da qui dalla California, è molto semplice ovviamente adesso con internet. E niente, la trasmissione che si chiama qui Extreme Couponing, che rende molto più l'idea insomma di tutti i passi per la spesa, la guardiamo anche noi da tanto tempo e ovviamente i casi presentati sono estremi, però la platea qui, la popolazione è assolutamente abituata ai coupon e c'è una percezione proprio diversa da quella italiana. In Italia quando si va con un coupon in un supermercato insomma ti guardano anche un po' male, qui invece è veramente la norma e lo posso dire perché vivo qui e quindi posso confessare insomma che risparmio mediamente dal 20 al 30% utilizzando i coupon, non sono extreme come quelle che si vedono nella trasmissione, insomma, ma mediamente tutti gli americani sono. Però sono Simona, così. La cosa che mi interessa sapere da te, tu gestisci un sito che si chiama soldissimi.it, quindi tu stai preparandoti dagli Stati Uniti come osservatrice e come operatrice, diciamo, di transazioni, di buoni, a sondare quello che è il mercato italiano. Con il tuo sito cosa fai? Tu metti le persone in comunicazione dicendo loro quelli in che sono... tra di loro. Un social networking della spesa facilitata, una cosa del genere? Sì, del risparmio in genere, di tutte le promozioni che esistono valide per gli italiani, quindi dai concorsi a premi alle raccolte punti, la possibilità di ricevere omaggi, di andare alle anteprime gratuite al cinema, di scambiarsi punti per completare tutte le proprie raccolte, perché ovviamente fare una raccolta punti a volte può essere anche pesante, ci può volere molto tempo, di comprare sempre lo stesso prodotto, invece con lo scambio di punti si è facilitato tantissimo tutto, io ho 3 punti dei formaggini, 4 punti delle merendine, 10 punti del latte, scambio quelli che non mi servono e mi faccio dare quelli che invece mi servono per completare la raccolta. Ma mi dici il campione medio dei tuoi clienti più o meno, di quelli che seguono il tuo sito? Guarda, sì, è cambiato tantissimo nel tempo, come dicevi tu prima, l'immagine di quello che fa la raccolta punti è solitamente la massaia che ha tanto tempo, incolla questi punticini, adesso non è più così, è cambiato tantissimo, ci sono ragazzi, studenti, chirurghi, insegnanti, un po' tutte le fasce d'età, insomma tutte le fasce d'età, tutte le tutti i titoli di studio, tutti i tipi di lavori, perché in effetti se prima risparmiare, potersi concedere un piccolo sfizio era, diciamo, un modo per divertirsi, adesso è diventata piano piano un'esigenza. Te ne do subito la prova. Scusate, l'impressione che ascolta radio che io dia sulla voce alla nostra amica, ma in realtà c'è qualche secondo di ritardo, quindi lei mi ascolta quando ha finito di parlare. Alberto, buongiorno. Alberto, buongiorno, chiamo da Torino. Sei un maniaco delle carte fedeltà? Sono un maniaco delle carte fedeltà e, a parte questo, io ho creato un portale dove si può online vedere tutti gli sconti, vedere ah, anche tu quello che fa la nostra amica dall'America. Sì, e credo che sia molto utile questo, perché se si va sul portale, come per esempio quello di cui parlavate voi, si trova online chiaramente tutti gli sconti. Io faccio una ricerca online su tutte le cose che sono scontate, su tutti dai siti che danno sconti online, e poi li pubblico su questo portale mio, quindi la gente, leggendo, possono anche verificare. Mi dai un'idea di una media di risparmio possibile su una spesa quotidiana seguendo un sito come i vostri? Ma una media di risparmio può essere anche, secondo me, di 20-30 euro al giorno, e poi ci sono siti che pagano anche solo per visita. Tu entri in quel tal portale, fai delle ricerche e dai degli sconti, per cui secondo me funziona molto da questo punto di vista. E l'italiano, che per luogo comune, che io assolutamente reputo passatista come lettura, è digitalmente arretrato, in realtà si sta muovendo anche in questo campo? Ma in realtà si muove molto, perché c'è molta crisi in giro, per cui le persone cercano il risparmio dappertutto. Se puoi trovare il buono sconto con lo sconto nel grande ipermercato, oppure anche nel piccolo negozietto sotto casa, perché ormai ci sono siti come ad esempio Groupon, dove tu hai gli sconti. Io i ristoranti a cena, per esempio, vado sempre lì, acquisto il ticket che ha uno sconto del 70-80% e poi vado a cena. Il discorso è che poi, se non ritorni ovviamente dallo stesso commerciante, questo secondo me si trova fregato, perché ti ha fatto lo sconto, ma poi se non ti viene. Ma io infatti ho scoperto con sorpresa questa mattina che le persone che lavorano con me, il magister Fabrizio Intonti e il professor Rocchetti, anche loro vanno al ristorante comprando i posti ristorante in internet in queste grandi occasioni. Quindi è qualcosa che mi sorprende, ma qualcosa che sta dando l'idea di come si stia muovendo il mondo. Bravo, poi che se poi non torni dallo stesso commerciante, questo ti ha fatto lo sconto e praticamente ci ha poi rimesso. Starà lui a conquistarsi di sconto, non puoi darti gli avanzi, non puoi pretendere più di tanto, insomma. Sì, però si apre un nuovo mercato, sta lui a mantenere una sua posizione sul mercato, si muoverà nella migliore delle maniere per cercare di avere il suo profitto, pur soddisfacendo le persone che approfittano della sua occasione. Andrea, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Mi parli della sua fantastica offerta. Dunque, la fantastica offerta è stata che, vabbè, mia moglie, avendo la tessera di una famosissima catena di supermercati italiani, quelli con la sillaba lunga. Vabbè, diciamo, non ci cambia molto. Ma mi spiega solo una cosa, scusi. In famiglia sotto c'è una tessera. Quando lei dà per scontato che vada sempre sua moglie a fare la spesa, perché a me chiedo sempre: ce l'ha la tessera? Io non ce l'ho, probabilmente ce l'avrà mia moglie, ma quando ci vado. Esiste una tessera formato famiglia che è doppia, che possono darne una alla moglie e una al marito? No. Sì, ci sono, però non sono tanto convenienti. Diciamo che è unica e abbastanza conveniente. Poi vedo anch'io il sabato, se vado a fare la spesa anch'io, vedo che l'accredito dei punti è veramente conveniente. E con i punti che ci prendete poi? Le pentole? Io vedo tante pentole in giro nei supermercati dove vado io. Omaggio. Ho le pentole, i navigatori, o qualcosa per il navigatore, o qualcosa per la casa. Di solito si cerca di prendere qualcosa di utile che possa servire veramente. Però in questo caso abbiamo deciso di prendere... Con questa carta abbiamo acquistato gratuitamente 4 ingressi per Gardaland e 4 ingressi per l'acquario di Genova. Quanti formaggini avete mangiato però negli anni per guadagnarvi questa cosa? Negli anni abbiamo fatto spesa parecchio. No, vabbè, quanto tempo ci vuole per guadagnarsi 4 ingressi a Gardaland? Che immagino che sarà una cifra... Tutti questi punti si mettono da parte nell'arco di 2-3 anni. Quindi 3 anni di punti per andare a gara. Vabbè, però è sempre qualcosa regalato. È a caval donato, non si guarda in bocca. Ciao, ho 120 bollini adesivi della Coop Adriatica per i piatti Richard Ginori, ma li vorrei scambiare con bollini adesivi Conad per i bicchieri. Ciao, offro bollini adesivi di precedente collezione per pentole e padelle in ceramica TVS, oppure punti Ferrero Regalissimi 2012. Ciao a tutti, io dispongo di punti premio per ciotoline e portagrissini. Li offro in cambio di punti o tazza o zuccheriera o bricco. Non è che ce le siamo inventate, noi abbiamo semplicemente fatto leggere ai nostri speaker delle annunci di scambio punti che abbiamo trovato in rete. Laura Carafoli, immaginavi che già fossimo così avanti? Ma penso di sì, perché sennò non avresti mandato in onda questo programma. Devo dirti però che l'aspettativa non era così alta. Pensa che il programma mercoledì sera alle 22:10 ha raccolto quasi 400.000 telespettatori, cioè con 1,5% di share, che è tantissimo se ci pensi, no? Era comunque un tentativo. Nemmeno un film zozzo farebbe tanto. E tra l'altro, infatti, cioè c'è stato. E poi il profilo, appunto, ci aspettavamo molto più femminile, come dicevi tu, la famosa massaia. In realtà il profilo è 60 donne, 40 uomini, il 40% erano maschi. Quindi... Ma stai notando, Laura, stanno telefonando soltanto uomini a questa trasmissione? Esatto, infatti. È pazzesco. Infatti questa cosa è molto. Come dire, è sorprendente, perché non ci aspettavamo questi numeri, e tra l'altro non ci aspettavamo anche un movimento di commenti su Facebook che abbiamo avuto, di persone così coinvolte. Quindi devo dirti che ancora una volta quello che i nostri come dire, fratelli americani, perché il canale che manda in onda questi programmi è un canale nostro parente, si chiama TLC, è un programma che è prodotto sempre da Discovery, quindi in qualche modo noi queste cose le abbiamo in via preferenziale da loro, e molto spesso arrivano cose molto estreme che diciamo, caspita, no, noi non possiamo dare a un pubblico del free-to-air italiano queste cose. In realtà ogni volta io sono un appassionato, non so se sono i tuoi canali di malattie imbarazzanti, eccolo lì, sì. È uno dei programmi miei preferiti. Ecco, anche questo pensavamo fosse troppo imbarazzante, in realtà questo favoloso programma a mezzanotte, perché ci limitiamo comunque un minimo nella programmazione, fa 300-350 mila, ci arriva anche a fare il 3-4%. L'apoteosi del bubbone è una cosa fantastica. Però se rimaniamo insomma su questo filone, ne vedremo delle belle, perché se questo fenomeno dell'extreme couponing è già estremo, il fratello, come dire, malato, tra virgolette, ossessivo di questo è invece il fenomeno del hoarding, che noi metteremo in onda a giugno, ovvero sepolti in casa dagli oggetti, perché poi è vero, il passo è molto breve, da chi accumula in maniera molto ordinata in una dispensa 100 confezioni di pannolini pur non avendo dei figli, a quelli invece che sono poi alla fine proprio sommersi in qualche modo dagli oggetti, diventano come ma quello è case da incubo, già c'è. È una cosa simile a quello che va sul nostro canale, non sul nostro canale ma su un concorrente della Pay TV. Noi avremo questa invece serie che è come dire, prima di questa, è molto più estrema, e sono 3 stagioni anche queste in America, noi lo metteremo in onda anche lì, però in un orario un po' più, come dire, nascosto, alle 11 di sera, perché effettivamente ci sono delle situazioni che sono molto simili alla patologia. Beh, sommersa dalla margarina, dalle scatolette, sì, di tonno. Sì, ma delle robe anche poi, dopo che lì vivono bene anche degli animali, dei parassiti, quindi lì diventa un po' tutto un misto tra malattie imbarazzanti e quindi, parassiti. Mi sembra quello che ci dice Laura Carafoli, che è la responsabile, la direttore dei canali Discovery in Italia. L'escalation è questa più o meno. Ci si appassiona all'acquisto attraverso i coupon, attraverso le offerte, scambiandosi in rete anche le grandi occasioni, e diventa una maniera di socializzare. Però non ci si rende conto che si accumula, e si accumula, le case si riempiono. Qualcosa si scambierà, qualcosa si regalerà ai poverelli, alla Caritas, ai bambini affamati, si manderà in Africa, ma le case si riempiono di scatolette, di oggetti, di pannoloni, e alla fine diventano le case da incubo, diventano le case in cui gli esseri umani sono sommersi alla merce. Trovo che sia una fantastica maniera di prefigurarsi l'apocalisse possibile. Cesare, buongiorno. Buongiorno. Eccomi. Lei da che parte sta? Ha già la casa piena di roba o è sulla buona strada? No, in realtà la mia è semplicemente una considerazione sul cambiamento del fine di questo tipo di attenzione all'appassionamento delle persone. Ma il fine è sempre quello di aspettare la morte divertendosi, quindi va bene tutto secondo me. Certamente, solo che una volta effettivamente le industrie, diciamo, il commercio aveva inventato il discorso dei punti per fidelizzare i clienti, per appassionarli. Adesso in realtà c'è dietro un giro d'affari impressionante, dove il risparmio che il cliente può avere, ed è una cosa buona, legittima e interessante, sull'acquisto dei prodotti, vede una contrapposizione di un giro d'affari, di un livello di proporzioni incredibili sullo scambio di informazioni raccolte, anche se anonime, sulle abitudini delle persone. Quindi io in cambio do la mia profilatura, in cambio della grande offerta profilo al massimo, vi faccio vedere anche che tipo di pannolone uso o qual è il tonno in scatola che preferisco, che è un valore sul mercato, ma a me non costa nulla darvelo. No, non costa nulla, è solo un po', lascia un po', non dico indignati, ma leggermente infastiditi pensare alla proporzione. Io risparmio una piccola cifra, ma dietro c'è un guadagno di proporzioni. Ho capito. 30, sì, no, io ho capito, ma io do delle cose che per il momento ormai non hanno un valore reale. Vi racconto che tipo di pasta asciutta mi faccio, che mi importa, se mi fate risparmiare, che poi su questa mia su questo mio dato sensibile voi costruite degli affari, io sono contento, però basta mi fate risparmiare. Un domani che verrà anche una sorta di tassametro che regolerà anche i nostri dati sensibili, io dirò, beh, se tu vuoi sapere che mangio, mi paghi e poi ti racconto cosa mangio. Melog. La realtà condivisa. Ciao, mio figlio mi ha lavato i punti Billa in lavatrice. Se qualcuno avanza a qualche punto, me ne mancano circa 7. Fatemi sapere che cosa vi serve in cambio. Ciao a tutti, cerco urgentemente punti Kinder 2011. In cambio cedo Parmalat, Pampers Salvietta, Divella, farina Mulino Bianco e inoltre ho a disposizione diversi buoni per ottenere punti extra della raccolta Nectar con vari bonus di punti. Salve, cerco punti Kinder Ferrero. In cambio cedo punti Parmalat, qualcuno del Mulino Bianco e un Galbusera. Continuiamo a farvi ascoltare l'infuocato scambio di buoni acquisto, di tagliandi che danno delle possibilità di acquisto agevolato, raccolti dal sito raccoltepunti.com, che è uno dei posti in cui la gente si scambia, come ci si scambiano oggetti, come ci si scambia qualunque cosa che respire, canti, ci si scambiano anche i punti. E per completare le raccolte, in tempi pre-digitali, le massaglie dovevano soffrire tantissimo, mettere in quei cassetti raccolte con l'elastichino, con la molletta dei panni, mucchi di figurine, di ritaglini, alla fine si perdeva, non si finiva mai, passavano anni. Adesso basta scambiarsele. Sentiamo Aziz, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la sua trasmissione, dottor Nicoletti. No, niente, io volevo dire questo. Sono marocchino, ma mi ricordo quando sono arrivato in Italia, non ho mai studiato l'italiano, ma grazie ai supermercati io andavo lì e stavo lì a leggere ingredienti, la provenienza, scadenze, tutte queste cose qua. Ha preso l'italiano dai banchi del supermercato? Sì. Ma poi io, se non capivo qualcosa, chiedeva le commesse. No, quelli che sono lì a vedere i prodotti, anche loro. C'è il primo che mi trova di fianco, lì che le faccio la domanda. Non mi interessava se mi risponde male, mi risponde bene. L'importante è che Aziz, mi risponde, non ci prendiamo in giro. È un'antica tecnica provolonica. L'uomo solo che va al supermercato e chiede: signora, mi consiglia per favore qual è la migliore? No, dottor Nicoletti, non è così. Leggo e dico chiedo alla signora: cosa vuol dire questo? Non qualcos'altro, cioè, è una maniera per attaccare discorso, dai, una vecchia tecla, l'abbiamo fatto tutti. Non è vero, ma mica è proibito. Non lo proibisce la legge. No, veramente non era così, però mi ha aiutato tanto a imparare tanti di quei termini che io non avevo. Bene. In più c'è il fatto che con questi punti faccio tanti di quei supermercati, in più il fatto che sono un po' emozionato, che con questi punti facevo la raccolta alla fine. Poi adesso mi sono accorto che dopo, arrivato a una certa somma di punti, chiedevo le ricariche del telefono. Ricariche? Danno anche le ricariche. E quindi è una fortuna. È una fortuna, veramente. Cioè, sono tutti i soldi che vanno risparmiati. Va bene, bravo Aziz. Continui ad andare per supermercati a chiedere informazioni fingendo che ancora non sa l'italiano. Quando sì. C'è tempo questo. È il momento ludico. Pomeriggio non va lì. Passa davanti al banco della frutta, butta una frase là, e se ritorna sempre a casa felice e contenti. Enrico, tutti uomini stanti. Non telefono alla donna. Enrico, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno agli ascoltatori. Io vado controcorrente e ricalco un intervento precedente. Arrivo da una formazione professionale in grande distribuzione e non faccio tessere, non aderisco a nessun tipo di raccolta, perché è chiaramente un profilare il cliente tipo, il cliente medio, e quindi veicolare non solo le offerte stesse, ma anche i consumi stessi della popolazione. Dov'è la fregatura in questo? Perché io posso dire una cosa, Enrico: se uno mi dicesse mettiamo una webcam dentro il tuo frigorifero in cambio ti facciamo lo sconto, dico mettetecela, che mi importa, vedrete quello che mangio. La fregatura sta nel fatto che io non ho sconto su quello che realmente mi interessa. Io acquisto l'offerta in quanto tale, non perché è un genere di cui ho effettivamente bisogno. Ecco, ma le offerte da cosa sono determinate? Non so, dalla merce scadenza ad esempio, viene da pensare. No, non è detto, molto spesso sono più probabilmente accordi economici che fornitori, aziende, acquirenti stipulano tra di loro. Non c'è una politica di attenzione al cliente ultimo, c'è una politica di attenzione all'interesse dell'azienda stessa. Se io avessi un'azienda ragionerei così, mi scusi. Non faccio l'imprenditore. Perfetto, mi piace di più allora un'idea che potrebbe essere effettivamente la raccolta pubblica, la raccolta punti non tanto sulle offerte veicolate ma sulla spesa generale, che si traduce poi in uno sconto sulla spesa che io faccio, di cui ho effettivamente bisogno, e non su quello che il sabato nel caos del tutti facciamo la spesa il sabato, poi acquisto, riempio il carrello comprando tre cose in offerta e poi spendo 10 volte di più per tutto quello che non è in offerta. Però vedi, c'è una sorta di organizzazione sociale. Il fatto che ci sia la rete, il fatto che ci si possa scambiare comunque informazioni, non è detto che in rapporti di buon vicinato, di amicizia, uno si compra 70 cocomeri e li cambia con l'amica che si è comprata 7 cetrioli, e ognuno poi con questo si ha una spesa equilibrata. Sentiamo, andiamo avanti. Oh, due donne, però non fanno testo perché chiamano sempre. Vitalba, buongiorno. Buongiorno. Allora, telefonatrici compulsive. Ecco, guardi, bravo, ha proprio messo il dito nella piaga. Esattamente, perché a mio avviso, e qui siamo proprio esattamente nell'ambito di una sorta di compulsione, e cioè, lo shopping, la shopping addiction, quindi lo shopping compulsivo di questi tempi, insomma, non è il caso di poterselo permettere. Cioè vi fanno acquistare solo quello che non vi serve, in realtà quello che vi serve è a prezzo pieno, questo vorrebbe dire. Voglio dire, in questi tempi, ecco, una sorta di compulsione, quindi comunque di lasciarsi andare, fatta all'interno di un supermercato. Ma perché lasciarsi andare è un male, secondo lei, Vitalba? No, però quando sconfina nella compulsione. No, assolutamente. È il problema quando diventa compulsione. Però voi state parlando di questo, cioè quindi di questa tendenza all'accumulo che non è normale. Quindi ecco, io ho dato per scontato che fossimo in quell'ambito. Sì, quindi più o meno sì, più o meno sì. Ma sa, come tutte le cose, Vitalba, o piace o brucia. Dania, buongiorno. Ciao, buongiorno. Eccomi. Allora, io ho fatto sempre la raccolta punti del Mulino Bianco e Barilla. Erano le mie cioè manie proprio. Ma perché? Mi piacevano i regali. Che cosa otteneva in cambio? Tovaglie, piatti, pirofile. E del Mulino Bianco il regalo che mi fu spedito, che mi piacque di più, era proprio la radio e la sveglia fatte a casina del Mulino Bianco. Ma è fantastica. E la tiene ancora accanto al suo lettuccio, il Mulino Bianco che la mattina porta la nostra voce? No, non ce l'ho più. Lì ero piccolina, aiutavo mia mamma. Ma cioè, quanti biscottini questo ha dovuto inzuppare, Dania, per ottenere questi regali? Tanto. Mi ricordo che dovevamo ritagliare il biscotto proprio del Mulino Bianco dal sacchetto e attaccarlo sul coupon. E questo era proprio un compito mio. Cioè, proprio mi piaceva tantissimo, sia quando arrivava il regalo, proprio adrenalina a mille, ero piccolina. E adesso che è cresciuta, proprio, cosa ritaglia? E ora faccio, cioè ora ho meno tempo per fare, cioè ora ho le tessere fedeltà dei supermercati e basta, mi limito a questo. Però secondo me la convenienza c'è se consumi il prodotto e non compri cose futili tanto per fare punti. Io le ho sempre fatti su cose che usavo abitualmente, che ma di solito, ecco, di solito Dania, quando ci sono i ragazzi piccoli, certi prodotti uno ne consuma molti, poi quando i ragazzi crescono mangiano più i biscottini, le merendine, i dolcetti, è un po' difficile orientarsi verso quel prodotto, ma oggi è cambiato un po' lievemente il mercato, mi ci stanno facendo capire, è un po' diverso, è quando uno va direttamente nel luogo in cui si fa la spesa, nel supermercato, nella grande venta, vede le offerte, e non è un'offerta legata a quel prodotto che lei comunque sceglie, è un'offerta che sceglie il gestore, la catena dei supermercati, cioè oggi i panettoni sono 3 al prezzo di 1, adesso ho fatto un esempio che forse non è quello, e in questa chiave probabilmente loro fanno un grande affare, ma come molti dicono, io poi su questo ho qualche dubbio, adesso vedremo poi con un esperto fra un istante, c'è una sorta di acquisto guidato, quindi ci si riempie la casa di generi di consumo che in realtà non ci servono, che abbiamo in sovraccarico, uno pieno di scatolette di pomodoro, ma in realtà poi ha solo una scatola di spaghetti perché non erano in offerta. 800 24 00 24, ci fermiamo soltanto un istante per le informazioni del traffico, poi riprendiamo. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 800 28 11 11. Melog, la realtà condivisa. Otto zero zero ventiquattro, ci stiamo orientando nell'interessante, affascinante, almeno per me, mondo delle raccolte punti, dei buoni acquisto, dello scambio di merci acquistate a prezzi vantaggiosi, che si profila una nuova maniera anche interessante, anche divertente, che permette socializzazione, nuova maniera, dicevo, di fare la spesa. Abbiamo Ilaria. Ilaria, buongiorno. Buongiorno e complimenti per la sua trasmissione, che è sempre interessante. Io volevo dire che queste carte che fidelizzano il cliente non solo puoi prendere dei premi, ma puoi anche detrarre che so, 1000 euro, 1000 punti, 10 euro, ecco. Non servono solo per prendere punti, che so, quando uno vede che non gli serve niente dei premi che ci sono, può detrarre sulla spesa anche a seconda dei punti che ha, anche 20-30 euro. E poi anche dirle che prima mi era sembrato di capire che lei chiedeva, no, se questa, che lei quando va a fare la spesa non ha questi, la sua carta, no, magari la sua moglie, però esiste anche che lei può fare la sua carta, sua moglie ha la carta, a un certo punto, voglio dire, i punti suoi può darli a sua moglie poi per detrarli eventualmente. Ah, si può fare uno scambio, diciamo una sorta di comunione dei beni, comunione dei beni, dei buoni acquisti. Sì, le va e dice, guardi, i miei punti, chiaramente per lo stesso esercizio, che insomma per lo stesso, lei è molto esperta, mi dà un consiglio utilissimo. Sì, sono, così lei può dire, guardi, ti ho regalato questi punti, prendili. Così, diciamo, per dare corpo al timore che è uscito spesso dai nostri ascoltatori di essere profilati, cioè controllati la propria spesa, il grande profilatore occulto potrà benissimo vedere quando vado a fare la spesa, io magari compro tonnellate di cose inutili ma fantasticamente lussuriose, quando c'è mia moglie prende cose tristissime ma utili e in realtà risparmiose. Abbiamo al telefono adesso finalmente un esperto che ci fa un punto e ci dà un'idea di come realmente funzionano le cose nel nostro paese. Abbiamo Riccardo Mangiaracina, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Che è responsabile dell'osservatorio sull'e-commerce del Politecnico di Milano. Le pongo subito una domanda, mi stanno mandando molti via SMS questa notizia, non so se poi realmente verificabile, che l'Agenzia delle Entrate richieda a diversi gruppi di distribuzione i dati delle carte fedeltà per poi confrontarle con i redditi. Beh, questo sarebbe decisamente un buon modo per fare le opportune verifiche e accertarsi che tutto passi in maniera controllata. Non capisco che la gente si preoccupa, ha paura che ti vengano a fare i conti, se compri troppo prosciutto di Parma magari ti vengono a fare una sorta di accertamento sulla tua denuncia dei redditi, non so quale sia il problema. No, mi sembra che questi timori siano assolutamente ingiustificati, voglio dire, quando uno non ha nulla da nascondere può stare sereno e anzi la vedo solo come, semmai come un'opportunità per il sistema paese. Ecco, vediamo questo fenomeno, che sta diventando un fenomeno di costume, l'ho registrato fra i miei colleghi poco fa, è il fenomeno, chiamiamolo vagamente fenomeno Groupon, cioè le offerte che vengono fatte attraverso dei siti internet a cui ci si iscrive, che ogni giorno ti dice: oggi se vuoi ti puoi fare 7 massaggi al prezzo di 5 e ti puoi comprare un callifugo a prezzo scontato. Ecco, come è entrato nel nostro uso quotidiano, perlomeno nell'uso quotidiano dell'italiano medio, accedere a queste offerte? Beh, ormai sono quasi 2 anni che Groupon e poi via via altri operatori con modelli di business simili hanno iniziato ad operare nel nostro paese. Come ha giustamente ricordato lei, è molto semplice il processo di registrazione: sostanzialmente devo fornire un indirizzo email e la mia città di residenza e poi giornalmente ricevo delle offerte a prezzi estremamente scontati di prodotti e servizi, ma soprattutto di servizi. E la particolarità è che queste offerte sono offerte di esercenti in ambito locale. Quindi funziona ormai... che non so, dei ristoranti, delle pizzerie, degli alberghi dicono: io vi do un pacchetto, un buono pasto a un buon prezzo, se ce l'avete vicino a casa e vi piace venite e risparmiate, così funziona. Esattamente così, per il cliente questo è il vantaggio sostanzialmente, un prezzo molto molto aggressivo, sconti arrivano fino all'80% sul prezzo di listino e poi tutto sommato l'altro vantaggio è l'accesso ad una gamma di servizi e prodotti, ma soprattutto ancora servizi che prima online non esistevano. Se volete, questo modello ha avuto l'eccezionalità di essere in grado di portare online un'offerta sconosciuta. Io guardi, non so se l'indicatore è giusto, ma sentendo le mie amiche, le colleghe, le cose che vanno di più fra le signore sono i pacchetti benessere, massaggi, saune, creme leviganti, che poi se le scambiano tra di loro. Quindi io prendo 6 buoni massaggio e ne posso dare 3 a un'altra persona, oppure devo farli proprio io su di me? No, beh, volendo si possono anche cedere, comunque confermo, sono esattamente queste le tipologie di prodotti e servizi che vanno di più, perché sono quelli con le marginalità più alte per gli esercenti e di conseguenza sono anche quelle che possono essere erogate con un maggior sconto e quindi diventano automaticamente più attrattive per il cliente. Ecco, qual è, diciamo, il rovescio della medaglia? Come chi fa le raccolte punti, poi teme la profilatura, teme di dover acquistare prodotti che in realtà non gli servono, in questo tipo di offerta quale potrebbe essere l'aspetto negativo, diciamo? Fino a questo momento quello che abbiamo potuto osservare è questo: in alcuni casi gli esercenti, cioè coloro che erogano poi quei servizi, non hanno ben compreso la reale funzionalità offerta da Groupon e tutti quegli operatori con modello di business simile, cioè l'obiettivo non è generare per loro immediatamente più fatturato, ma è utilizzare il sito di couponing come un canale di comunicazione per portare clienti, certo, all'interno del loro negozio e poi convincerli della bontà dei propri servizi. Questo ogni tanto non è compreso e di conseguenza quello che succede è che il cliente che arriva con il buono di Groupon viene trattato in maniera un pochino diversa dagli altri. E questo evidentemente per il cliente diventa il rovescio della medaglia: ho acquistato qualcosa a un prezzo molto scontato e poi non sempre ho un servizio corrispondente alle attese. Allora, diciamo in conclusione, Riccardo Mangiaracina, che l'utente è pronto per l'acquisto online, l'esercente ancora deve un po' capire che non è qualcosa che ti riempie subito le casse. Grazie a Fabrizio Intonti, grazie a Valerio Rocchetti, a domani.